Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. In primo piano la questione Ucraina, al centro dell'incontro dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Oggi i ministri degli esteri dei 28 hanno deciso di adottare nuove sanzioni contro la Russia per il suo atteggiamento in Ucraina, ma di congelarle in attesa dei prossimi avvenimenti. D'altro canto, molti paesi, tra cui la Spagna, sono preoccupati dall'impatto di queste sanzioni sull'economia europea. Secondo Madrid, le misure sanzionatorie avrebbero ridotto l'export europeo verso la Russia, così come gli investimenti russi in Europa, per un totale di 21 miliardi di euro. Inoltre, Francia e Germania stanno trattando in queste ore con il Cremlino per trovare un accordo ed evitare nuove tensioni militari, oltre che politiche. Mercoledì dovrebbe tenersi un vertice a Minsk tra Germania, Francia, Russia ed Ucraina, anche se oggi il ministro degli esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier ha detto che l'incontro non può ancora essere confermato. Nel frattempo anche l'Europa, come gli Stati Uniti, dibatte della possibilità di rifornire di armi l'esercito ucraino. I paesi baltici, da sempre molto combattivi, sono d'accordo. Altri Stati membri, come l'Italia, frenano, preoccupati, con ragione, dei rischi di una nuova escalation. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Serve una visione per l'Europa, perché l'Unione Europea non può essere solo sanzioni e memorandum, ma deve essere anche democrazia e diritti umani. Così il ministro degli esteri greco Nikos Kotsias, dello stesso partito del premier Alexis Tsipras, durante i lavori del Consiglio Esteri. Nessuna ipotesi di contagio dalla Grecia all'Italia come è successo nel 2011. A smentire con fermezza questa ipotesi il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, arrivato al G20 ad Istanbul. Con il collega Varoufakis ci siamo chiariti, ha detto ancora Padoan, commentando le parole del collega greco che ieri aveva parlato di un rischio bancarotta anche per il nostro paese. C'è stato uno scambio di messaggi, ha detto ancora Padoan, e l'obiettivo è trovare una soluzione condivisa per la Grecia a partire dall'Eurogruppo. L'Italia ha un debito grande ma gestibile, dato anche il quadro economico di ripresa. Al via un progetto comunitario per insegnare agli studenti a fare impresa. Imparare a fare impresa già dai banchi di scuola, con lezioni sul campo, incontri con esperti, elaborazioni di idee. Si chiama Innovation Cluster Entrepreneurship Education, il progetto comunitario che verrà lanciato domani a Bruxelles per promuovere l'educazione all'imprenditorialità tra gli studenti. L'iniziativa è realizzata nell'ambito del programma Erasmus Plus e a durata triennale, si chiuderà quindi nel 2018. Parteciperanno 5 Stati membri, l'Italia attraverso il Ministero dell'Istruzione, il Belgio, la Finlandia, l'Estonia e la Lituania. Nel nostro paese saranno coinvolte 20 scuole tra licei, istituti tecnici e professionali. Per gli studenti imprenditori sono previste una serie di attività che culmineranno nella creazione simulata di una microimpresa. I risultati saranno analizzati da un gruppo di ricercatori. L'obiettivo finale è creare un database di buone pratiche. Si punta anche alla promozione di esperienze di imprenditorialità prima di lasciare la scuola dell'obbligo, per offrire cioè una chance in più ai ragazzi. Oggi solo un giovane su 10 ha accesso a queste opportunità, la sfida è raggiungere il 100%, come stabilito anche dalle politiche dell'Unione Europea. Claudio Ducci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.